21.08, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia anche per oggi, 21 marzo del 2018, l'ennesimo appuntamento con prove tecniche di trasmissione, da adesso a circa le 22.30. 0649 1750 il contatto telefonico, sito internet anche per il nostro streaming www.ondarossa.info. ondarossa@ondarossa.info invece è il riferimento email di questa emittente. Mentre per quanto riguarda questo spazio c'è anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani verrà pubblicato il podcast e le playlist, cosa che accadrà puntualmente anche e naturalmente nel sito stesso. Si saluta Alessandra qui da Roma, Raffaele Pezzella da Napoli, Maya, vecchia ormai ascoltatrice dall'Argentina. E pian pianino tutti gli altri che nomineremo pian pianino. Per cui non mi rimane che iniziare, e lo facciamo con un progetto italiano. Abbiamo anche stasera molta musica italiana. E sto parlando dei Tacet, Tacet, Tacet di Francesco Zedde. C'è indubbiamente dell'influenza kraut rock, del profondo movimento psichedelico nelle note che andremo ad ascoltare di questo Perpetual, ultimo lavoro per Francesco Zedde. Per cui ci andiamo ad ascoltare Corg Date e Caudata per Tacet, Tacet, Tacet. Thank you. i bagliori sinistri e le strettezze perpetrate da Fra Zed e Francesco Zed in questo progetto dal nome Tacet, Tacet, Tacet. Dicevo Tacet, Tacet, Tacet, qui si chiacchierava piacevolmente con il buon Valerio e quindi si parlava anche di crowdfunding. Come sapete abbiamo raggiunto il nostro obiettivo in circa un mese anziché quattro, e domani ci sarà un'iniziativa proprio al Cinema Palazzo anche per ringraziare i numerosi sostenitori che ci ha portato ad acquistare questo nuovo ripetitore. Tra gli altri anche molti ascoltatori di prove tecniche, per esempio Raffaele che è all'ascolto, Francesco e altri, insomma, che Nicola Locci che saluto, anche lui. E mentre parlavo sono andati, e si parlava anche dei cosiddetti bagliori sinistri e delle strettezze di Tacet, Tacet, Tacet. E per amor di verità, insieme a Francesco Zedde operano in tal contesto anche Alberto Amagliani, Valentina Vindusca e basta. Sì, scusate, ma sto qui su un sito Bandcamp particolarmente scuro di colore, quindi un po' difficile da leggere. Comunque l'album era Perpetual, così infarcito di aromi cosmici e psichedelia iridescente. E sentite anche questa traccia che ascolteremo la prossima settimana, quanto può essere visionaria. E a proposito di entità visionarie, da Iesi, città di Fra Zed, ci spostiamo a Milano. Lo facciamo con Satanismo Calibro 9, una delle realtà più consistenti della scena Death Ambient, fondata da Dottor Peri, Francesco Perizzolo, Perizzolo che dir si voglia, credo Perizzolo. E ci andiamo ad ascoltare un album, il penultimo, come Satanismo Calibro 9 del 2016, dal nome Chima Rising. Qua il tutto si fa ancora più claustrofobico, come potrete anche apprezzare attraverso la prima traccia di questo Chima Rising dal nome Secret Door, la porta segreta. Un saluto anche a Luciano FM Genovese, artista qui di Roma. Go. Era dunque Kima Rising per Satanismo Calibro 9, un lavoro del 2016. Anche in questa occasione il tutto esce attraverso l'Old Europa Café, questa label di origine friulana, esattamente di Pordenone, che ormai ha segnato la storia della scena italiana per quanto riguarda l'industrial. Un saluto dunque a Nicola Locci, ancora dalla Sardegna, come Stigmate. E noi nasciamo qui, Satanismo Calibro 9, e ci inoltriamo nel momento e nella sezione del programma dedicato ai paesi balcanici, analizzati dal punto di vista musicale della sperimentazione sonora, grazie all'esperienza, alla sagacia e alla competenza di Raffaele Pezzella. Costui ha dunque editato questo doppio CD dal nome Balkan Experimental Survey Post-Industrial Counter Culture Series, un disco del 2018. Anche questa sera dunque ho scelto un paio di tracce. Cominciamo con Wolf Rams, con un brano intitolato Moi. Salutiamo Like Week e Massimo Ors Mascheroni, e di Ors più avanti sentiremo un qualcosina, e il buon Sisto Palombella. Ancora Wolf Worms. Rolf Rams, musicista proveniente dalla Serbia. Anche qui astrattezze, ma anche suoni e tintilli, glitches e drone che scorrono. Un ringraziamento a Raffaele che ci ha reso edotti sulla provenienza anche geografica di Wolf Rams. Un saluto anche a Antonella dalla Sicilia e Fulvio qui da Roma, Fulvio Biondo di Solar Lodge. Il prossimo artista dalla medesima compilation si chiama Dichotomy Engine. E qui invece si tratta di un vero e proprio assalto sonoro completamente diverso da Wolf's Rams. Road to Purgatory, Dichotomy Engine. Dichotomy Engine, di probabile origine serba anche lui, come intuisco da un blog di Codemy Engine, blogspot.it, che puntualmente Raffaele Pezzella ci ha scritto qui sul profilo personale. Dovete sapere che mentre io parlo e mando musica, qui ci sono Raffaele Pezzella e altri amici con cui si parla e si dialoga attraverso Facebook, che in questa circostanza serve molto. E ringraziamo Nicola per gli apprezzamenti. Adesso è ora, alle 21.45, di cambiare leggermente registro, anzi direi parecchio registro, e ce ne andiamo da Matter di Fabrizio Matrone. Un'avventura che ha sempre risentito dell'influenza di Sonar, di Dive e di Pansonic in tutte le manifestazioni, diciamo, sonore di questo che una volta era un duo e che da qualche anno è soltanto un progetto singolo. L'album in questione è del 2013, si chiama Be Your Ecstasy, e ci ascoltiamo Dominance e Exposure. Bio Ecstasy, lavoro di Matter di Fabrizio Matrone. Ormai sono parecchi anni che esiste questa realtà, diciamo di origine bolognese, anche se da qualche album a questa parte il nostro Fabrizio Matrone incide per la Kvitnu, un'etichetta che se non erro proviene dall'Ucraina. Una bella scelta, una particolare scelta per Matter. I fantasmi di Panzonic dunque popolano queste note di Matter, del compianto Mika Vainio e Ilpo Vaisanen. ...21.56... onda rossa 87.9 con prove tecniche di trasmissione. Adesso una vera e propria botta di energia rappresentata, e guarda un po', ritorna a Bologna con Bologna Violenta di Nicola Manzan. Abbiamo qui l'ultimo lavoro del 2016, si chiama Discordia. È un album che spazia parecchio dall'avanguardia al noise, al grindcore, ma anche con parentesi quasi di musica sinfonica. Dunque una realtà del tutto particolare, quella di Bologna Violenta. Brani al fulmicotone, velocissimi e cortissimi. E infatti questa sera ce ne ascolteremo ben 5, ossia Chiamala Rivolta, L'eterna lotta tra il bene e le macchine, I postriboli d'Oriente, Binario morto e la title track Discordia.